Capitolo 22. Sicché avete preso il tè alla casa di pietra con la signorina Lewis? Disse Marilla a colazione l'indomani mattina. E com'è ora? Sono più di 15 anni che non la vedo. È stato una domenica alla chiesa di Grafton. Immagino che sia molto cambiata. Davy Keith, quando vuoi qualcosa e non ci arrivi, chiedi a qualcuno di passartela senza allungarti sul tavolo in quel modo. Hai visto mai Paul Irving fare una cosa simile quando è invitato a pranzo qui da noi? Ma le braccia di Paul sono più lunghe delle mie, borbottò Davy. Hanno avuto 11 anni per crescere, le mie solo 7. E oltretutto io ho chiesto, ma 2 anni eravate così immerse nel discorso che non mi avete dato retta. E poi Paul non è mai stato a pranzo qui, ma soltanto per il tè ed è molto più facile essere ben educati al tè che a colazione. Non si ha neanche la metà della fame. Tra la cena e la prima colazione c'è un tratto di tempo molto lungo. Vedi, Anna, quel cucchiaino? Non è più grande di quanto lo era l'anno scorso, ma io sì. Non so, naturalmente, che aspetto avesse a quel tempo la signorina Lavendar, ma direi, non so perché, che non deve essere molto cambiata, rispose Anna dopo aver aiutato Davy a servirsi di sciroppo d'acero, dandogliene 2 cucchiaiate per calmarlo. Ha i capelli candidi, ma il volto è fresco e quasi fanciullesco, e ha 2 dolcissimi occhi nocciola, di una sfumatura così graziosa, color legno, con pagliuzze dorate, e la sua voce ti fa pensare al raso bianco, ad acque zampillanti e a campanelle fatate, tutto nel medesimo istante. Era considerata una gran bellezza da ragazza, disse Marilla. Non la conoscevo molto bene, ma per quel che la conoscevo mi piaceva. Certuni la ritenevano un po' stramba fin da allora. Davy, se ti colgo ancora a fare un giochetto del genere, aspetterai per mangiare che gli altri abbiano finito, come i francesi. La maggior parte delle conversazioni tra Anna e Marilla erano costellate da questi rimbrotti indirizzati a Davy. In quell'istante Davy, è doloroso doverlo riferire, non essendo in grado di raccogliere le ultime gocce dello sciroppo con il cucchiaino, aveva risolto la difficoltà sollevando il piatto con ambedue le mani e prendendo a leccarlo con la rosea linguetta. Anna lo squadrò con occhi così truci che il piccolo peccatore diventò rosso e disse, mezzo vergognoso e mezzo spavaldo, così non ne va sprecato neanche un po'. Chi è diverso dagli altri viene sempre chiamato strambo, continuò Anna. E la signorina Lewis è certamente diversa, anche se è difficile dire in che cosa consista la differenza. Forse è solo perché fa parte di quelle persone che non invecchiano mai. Meglio che uno invecchi quando tutti i tuoi coetanei invecchiano, disse Marilla senza fare molto caso ai possessivi. Altrimenti non hai più un posto dove situarti. A quanto so, Lavendar Lewis si è estraniata da tutto. Si è messa a vivere in quel luogo così fuori mano che quasi tutti l'hanno dimenticata. Quella casa di pietra è una delle più vecchie dell'isola. La fece costruire 80 anni fa il vecchio signor Lewis al suo arrivo dall'Inghilterra. Devi smettila di urtare il gomito di Dora. Oh, ti ho visto, sì, è inutile fare l'innocentino. Cos'hai da comportarti in questo modo stamattina? Forse sono sceso dal letto dalla parte sbagliata, suggerì Davy. Malty Balter dice che se lo fai le cose vanno di male in peggio per tutta la giornata, gliel'ha detto sua nonna. Ma qual è il lato giusto? E uno che cosa deve fare quando un lato del letto è contro il muro, eh? Voglio saperlo. Mi sono chiesta spesso che cosa fosse andato storto tra Stephen Irving e Lavendar Lewis, continuò Marilla ignorando Davy. 25 anni fa erano di certo fidanzati e all'improvviso ruppero il fidanzamento. Non so che cosa accadde, ma deve essere stato qualcosa di grave perché lui andò negli Stati Uniti e non tornò più a casa da allora. Forse non si trattò di nulla di tanto tremendo. Alla fin fine, credo che a volte le piccole cose nella vita creino più guai delle grandi, disse Anna con uno di quei lampi di intuito che si fanno beffe dell'esperienza. Marilla, per favore, non raccontare nulla della mia visita alla signorina Lavender, alla signora Linde. Comincerebbe di certo a farmi un sacco di domande e non so perché non ne ho voglia. E neanche la signorina Lavender avrebbe voglia di rispondere, ne sono sicura. Rachel ne sarebbe certo molto incuriosita, ammise Marilla, anche se non ha più tanto tempo come prima per impicciarsi degli affari altrui. È legata a casa ora a motivo di Thomas e comincia a sentirsi un po' depressa perché credo stia cominciando a perdere la speranza che Che la sua salute migliori. Rachel rimarrebbe molto sola se gli accadesse qualcosa, con tutti i suoi ragazzi sistemati nell'Ovest, salvo Eliza che è in città e a lei non piace molto suo marito. La disinvolta costruzione del discorso di Marilla calunniava Eliza, che era invece molto affezionata al consorte. Rachel dice che se facesse appello a tutte le energie ed esercitasse un po' di buona volontà starebbe meglio. Ma a che serve chiedere a una medusa di sedere ben diritta? Continuò Marilla. Thomas Lind di forza di volontà da esercitare non ne ha mai avuta. Finché si è sposato è stata la madre a comandarlo a bacchette, poi Rachel. È un miracolo che abbia avuto l'ardire di ammalarsi senza chiederle il permesso. Ma via, non dovrei parlare così. Rachel è stata una buona moglie per lui. Non sarebbe mai stato nessuno senza di lei, questo è certo. È nato per essere dominato ed è un bene che sia capitato in mani capaci e intelligenti come quelle di Rachel. A lui non è mai importato del resto, gli ha risparmiato la noia di dover decidere da solo qualunque cosa. Devi smetti di dimenarti come un'anguilla. Ma non ho altro da fare, protestò Devi. Ho finito di mangiare e non è divertente veder mangiare te, Anna. Bene. Tu ed Ora uscite a dare il becchime alle galline, fece Marilla, e non cercare di strappare altre penne dalla coda del gallo bianco. Volevo delle penne per farmi un'acconciatura da pelle rossa, disse Davy imbronciato. Malty Bowlter ne ha una proprio bella, fatta con le penne che gli ha dato sua madre quando ha ammazzato il vecchio tacchino bianco. Potresti lasciarmene prendere qualcuna. Quel gallo ne ha tante, molte più del necessario. Puoi prenderne in soffitta dal vecchio piumino per la polvere, disse Anna, e poi ti dipingerò le penne di verde, di rosso e di giallo. Tu lo vizi terribilmente, quel bambino, disse Marilla, quando Davy, con la faccia raggiante, uscì fuori insieme con la contegnosa Dora. Marilla aveva fatto passi da gigante negli ultimi 6 anni, ma non era ancora riuscita a liberarsi dall'idea che fosse male per un bambino vedere appagati troppi desideri. Tutti i ragazzi della sua classe hanno copricapi indiani e Devi ne vuole uno anche lui, disse Anna. Io lo so bene come ci si sente. Non dimenticherò mai quanto ho desiderato le maniche a sbuffo quando tutte le altre ragazze le avevano. E Devi non è viziato, anzi, un po' alla volta migliora. Pensa che differenza da quando è arrivato qui un anno fa. Certo, sì, di birbonate ne fa meno da quando ha cominciato ad andare a scuola, riconobbe Marilla. Penso che si sfoghi con gli altri ragazzi, ma io sono davvero stupefatta che non abbiamo ancora ricevuto notizie da Richard Keith. Neanche una parola da maggio a oggi. Ma mi spiacerebbe ricevere sue notizie, sospirò Anna, cominciando a sgomberare il tavolo. Se dovesse arrivare una lettera, avrei paura di aprirla per timore che ci fosse scritto di mandargli i bambini. Un mese dopo. La lettera arrivò, ma non era di Richard Keith. Un suo amico scriveva per informare che Richard Keith era morto di tisi 15 giorni prima. Lo scrivente era il suo esecutore testamentario e quel testamento assegnava alla signorina Marilla Cuthbert la somma di $2.000 per conto dei piccoli David e Dora Keith, fino a che non fossero stati maggiorenni o sposati. Nel frattempo, gli interessi sarebbero stati impiegati per il loro mantenimento. È spiacevole rallegrarsi di qualcosa che sia collegato con la morte, disse Anna gravemente. Mi dispiace per il povero signor Keith, tuttavia sono contenta che possiamo tenere i gemelli. È un'ottima cosa riguardo al denaro, disse Marilla con fare pratico. Io volevo tenerli, ma non sapevo come fare, soprattutto quando fossero stati più grandi. La fattoria rende quel tanto che serve a mantenere la casa e non intendevo assolutamente che tu spendessi un centesimo del tuo denaro per loro. Fai già tanto per loro ora. Dora non aveva nessun bisogno di quel cappello nuovo che le hai comperato, non più di quanto un gatto abbia bisogno di 2 code, ma ora è tutto chiarito e sono forniti del necessario. Davy e Dora furono entusiasti quando seppero che avrebbero vissuto a Green Gables per sempre. La morte di uno zio che non avevano mai visto non aveva alcun peso al confronto sulla bilancia, ma Dora aveva un timore. È stato sepolto lo zio Richard? Bisbigliò ad Anna. Sì, cara, naturalmente. Non è come lo zio di Mirabel Cotton, vero? Aggiunse in un bisbiglio ancora più agitato. Non se ne va in giro a camminare attorno alle case dopo essere stato sepolto, vero? Capitolo 23. Credo che farò una passeggiata fino alla casa dell'Eco stasera, disse Anna un venerdì pomeriggio di dicembre. Pare che stia per nevicare, disse Marilla con aria incerta. Sarò là prima che inizi e ho intenzione di fermarmi tutta la notte. Diana non può venire perché ha gente a casa e io sono sicura che la signorina Lavender mi aspetta stasera. Sono già trascorsi 15 giorni da quando sono andata a trovarla. Da quel giorno di ottobre Anna si era recata più di una volta in visita alla casa dell'Eco. Talvolta lei e Diana andavano in calesse, passando dalla strada. Altre volte facevano una passeggiata attraverso i boschi. Quando Diana non poteva, Anna andava sola. Tra lei e la signorina Lavendar era nata una di quelle amicizie profonde e calorose, possibili soltanto tra una donna che ha mantenuto in cuore la freschezza della giovinezza e una ragazza in cui fantasia e intuizione supplivano all'esperienza. Anna aveva finalmente scoperto un vero spirito affine. Mentre nella solitaria vita di sogni quasi da reclusa della piccola signora, Anna e Diana erano entrate con tutta la gioia e l'allegria dell'esistenza, allegria che la signorina Lavendar, dimenticando il mondo ed esso dimenticata, aveva da tempo cessato di spartire con altri. Nella piccola casa di pietra, esse avevano portato l'atmosfera della giovinezza e della realtà. Carlotta IV le accoglieva sempre con il più ampio dei sorrisi, e i sorrisi di Carlotta erano davvero ampi, perché le amava sia per conto della sua adorata padrona, sia per se stessa. Mai era regnata tanta allegria nella casetta di pietra, come in quel magnifico autunno che si prolungava, dove novembre sembrava ottobre e perfino dicembre imitava la luce e le caligini dell'estate. Ma quel particolare giorno pareva che dicembre si fosse ricordato di colpo che era tempo d'inverno e fosse divenuto all'improvviso fosco e incombente, con una calma senza vento che faceva presagire l'imminenza di una nevicata. Ciò nonostante, Anna godeva profondamente della passeggiata attraverso quel gran labirinto grigio delle faggete, anche se era sola, non soffriva di solitudine. La sua fantasia popolava il suo cammino di allegri compagni e con essi faceva finta di ingaggiare una gaia conversazione, più spiritosa, certo, e più affascinante di quanto non siano talvolta le conversazioni nella vita reale, quando la gente, ahimè, deplorevolmente viene meno alle aspettative. In un consesso immaginario di spiriti scelti, ognuno dice esattamente la cosa che tu vuoi che gli dica e ti dà così l'occasione di dire esattamente quello che tu vuoi dire. Scortata da questi compagni invisibili, Anna attraversò i boschi e arrivò al viottolo bordato dagli abeti, proprio mentre i primi larghi, soffici fiocchi cominciavano a ondeggiare dolcemente nel posarsi a terra. Alla prima curva si imbatté nella signorina Lavendar in piedi sotto un grande abete dai larghi rami. Indossava un abito lungo di un rosso caldo, ricco, e la testa e le spalle erano ammantate in un argenteo scialle di seta grigia. «Sembra la regina delle fate del bosco», disse Anna allegramente. «Sapevo che saresti venuta stasera, Anna», disse la signorina Lavendar, correndole incontro. E ne sono doppiamente felice perché Carlotta IV è via. Sua madre è malata e stasera ha dovuto andare a casa. Mi sarei sentita molto sola se tu non fossi venuta. Neanche i sogni o l'eco sarebbero riusciti a farmi compagnia. Oh, Anna, come sei graziosa!» aggiunse all'improvviso, alzando gli occhi a guardare la ragazza alta e sottile, con le guance dolcemente arrossate dalla passeggiata. «Come sei graziosa e come sei giovane!» Che bella cosa avere 17 anni, vero? Ti invidio, concluse candidamente la signorina. Ma lei nell'intimo ha solo 17 anni, sorrise Anna. No, sono vecchia, o meglio, sono anziana, il che è molto peggio, sospirò la signorina Lavendar. A volte faccio finta di non esserlo, ma altre volte me ne rendo conto benissimo e non riesco a darmene pace, come pare che molte donne facciano. Mi sento altrettanto sconvolta di quel giorno in cui scoprii d'avere il primo capello bianco. Su, Anna, non guardarmi con l'aria di chi sta cercando di capire. A 17 anni non si può capire. Ora, subito, farò finta di avere 17 anni e mi riuscirà benissimo, dato che ci sei tu. Tu porti sempre in mano la giovinezza come un regalo. Passeremo una bella serata, vedrai. Prima il tè. Che cosa vuoi per il tè? Abbiamo tutto quello che desideri. Pensa a qualcosa di carino e di indigesto. Si udì un gran chiasso e suoni di allegria nella casetta di pietra quella sera. Tra cucinare, banchettare, fare lo zucchero candito, ridere e far finta, la signorina Lavender e Anna si comportarono in modo del tutto inadeguato alla compostezza di una zitella di 45 anni e di una posata maestra di scuola. Poi, quando furono stanche, sedettero nel salotto, sul tappeto, davanti al caminetto, illuminato soltanto dal dolce calore del fuoco e profumato deliziosamente dal vasetto di profumo di rosa che la signorina Lavender aveva aperto sulla mensola del caminetto. Si era levato il vento e ora mormorava e sospirava attorno alle grondaie e la neve batteva dolcemente alle finestre, come se un centinaio di spiritelli della tempesta bussassero per farsi aprire. «Sono così contenta che tu sia qui, Anna», disse la signorina Lavender, rosicchiando il suo zucchero candito. «Se non ci fossi sarei molto malinconica. Di giorno, alla luce del sole, va benissimo sognare, giocare e far finta, ma quando è buio e c'è il temporale non dà tanta soddisfazione. Allora si desiderano le cose reali, ma tu non lo sai. A 17 anni non si sa. A 17 anni i sogni bastano perché tu credi che più in là essi divengano realtà. Quando avevo 17 anni, Anna, non pensavo che a 45 mi sarei ritrovata una vecchia signorina dai capelli bianchi che ha solo i sogni per riempirle la vita. Ma lei non è una vecchia zitella», disse Anna, sorridendo agli occhi color nocciola della signorina Lavender, dolcemente interrogativi. «Zitelle si nasce, non si diventa. Qualcuna nasce zitella, qualcuna riesce a diventarlo, e a qualcun'altra viene imposto», parodiò capricciosamente la signorina Lavender. «Allora lei è una di quelle che è riuscita a diventarlo», rise Anna, «e c'è riuscita così bene che se tutte le vecchie zitelle fossero come lei, diventerebbero di moda». «A me è sempre piaciuto fare le cose meglio che si può», disse la signorina Lavender con aria meditabonda. «E, dato che zitella dovevo essere, ho deciso di essere una zitella graziosa. La gente dice che sono strana, ma è solo perché sono come sono e mi rifiuto di seguire il modello tradizionale. Anna, nessuno ti ha mai raccontato la storia di Steven Irving e di me?» «Sì», disse Anna candidamente, «ho saputo che una volta siete stati fidanzati. Infatti è vero, 25 anni fa, una vita, e dovevamo sposarci la primavera seguente. Mi ero già fatta il vestito da sposa, sai, anche se nessun altro tranne mamma e Steven lo sapeva. Eravamo fidanzati da sempre, se così si può dire. Quando Steven era un bambino, sua madre lo portava con sé quando veniva a trovare mia madre. E la seconda volta che venne, lui aveva 9 anni e io 6, mi disse in giardino che aveva proprio deciso di sposarmi da grande. Mi ricordo che io risposi grazie, e quando se ne fu andato, dissi alla mamma con gran serietà che mi ero tolta un gran peso dal cuore perché non avevo più paura di restare zitella. Quanto rise la mia povera mamma. E cosa accadde poi? Chiese Anna con il fiato sospeso. Litigammo. Un litigio stupido e sciocco. Così sciocco che, se mi credi, non mi ricordo nemmeno come cominciò. Non so neppure chi fosse più da biasimare allora. Fu Steven a cominciare, ma credo che fui io a provocarlo con una delle mie solite sciocchezze. Aveva uno o due rivali, capisci? Io ero vanitosa e civetta e mi divertivo a stuzzicarlo un poco. Lui era una persona molto sensibile, ipersensibile, anzi. Bene. Ci lasciammo ambedue in preda alla collera, ma io pensai che tutto si sarebbe risolto e così sarebbe stato se Steven non fosse tornato troppo presto. Anna, mia cara, mi duole dirlo. La voce della signorina Lavender si abbassò come se fosse stata sul punto di confessare una spiccata predilezione per l'assassinio. Ma sono un tipo terribilmente scontroso. Oh, non c'è bisogno di sorridere, è vero, terribilmente vero. Io tengo il broncio. E Steven ritornò prima che l'avessi fatta finita. Non volli ascoltarlo e non volli perdonarlo, e così se ne andò per sempre. Era troppo orgoglioso per tornare di nuovo. E allora tenni il broncio perché non veniva. Avrei forse potuto mandargli a dire di venire, ma non riuscivo ad abbassarmi a tanto. Ero orgogliosa quanto lui. Orgoglio e scontrosità si accompagnano davvero male, Anna. Ma non me ne importò più di nessuno, e neanche lo volevo. Sapevo che preferivo essere una vecchia zitella per 1000 anni, piuttosto che sposare qualcuno che non fosse Steven Irving. Sembra tutto un sogno ora, è ovvio. Come sei comprensiva, Anna. Comprensiva come sanno esserlo solo i tuoi 17 anni. Ma non esagerare, sono una persona molto felice e soddisfatta, nonostante il mio cuore spezzato. Il cuore mi si spezzò, se mai ciò accade a un cuore, quando mi resi conto che Steven Irving non sarebbe tornato. Ma, Anna, un cuore spezzato nella vita reale non è così tremendo come appare nei libri. Assomiglia molto a un dente che fa male, anche se non troverai la similitudine molto romantica. Fa male a periodi e ogni tanto passi una notte in bianco, ma negli intervalli ti consente di goderti la vita e i sogni e gli echi e le arachidi candite come se niente fosse. Ora sembri delusa. Non credi più che io sia un personaggio tanto interessante come credevi 5 minuti fa, quando eri convinta che fossi preda di un ricordo tragico coraggiosamente nascosto sotto un perpetuo sorriso? È questo il guaio, o la bellezza reale della vita vera, Anna. Non ti permette d'essere infelice. Cerca sempre di farti stare un po' meglio e di farti avere successo, anche se sei decisa a essere infelice e romantica. Non è delizioso questo candito? Ne ho già mangiati più di quanti dovrei, ma continuerò ad essere golosa e imprudente. Dopo un breve silenzio, la signorina Lavendar disse tutt'a un tratto: "È stato un colpo per me sentir nominare il figlio di Steven il primo giorno che sei venuta qui, Anna. Non sono mai riuscita a parlartene dopo di allora, ma ho sempre desiderato di sapere tutto di lui. Che tipo di ragazzo è?" "Oh, è il bambino più caro e più dolce che abbia mai conosciuto, signorina. E anche lui gioca spesso con la fantasia, proprio come noi due." "Mi piacerebbe conoscerlo", disse la signorina sommessamente, come parlando tra sé e sé. "Chissà se assomiglia un po' al piccolo ragazzo dei sogni che vive qui con me, il mio ragazzo dei sogni." "Se vuol conoscere Paul, lo porterò con me una volta o l'altra", disse Anna. "Oh, mi piacerebbe, ma non troppo presto, voglio abituarmi all'idea. Potrei provarne più dolore che gioia se assomigliasse troppo a Steven, o se non gli assomigliasse abbastanza. Puoi portarlo tra un mese." E infatti, un mese dopo, Anna e Paul attraversavano il bosco, arrivavano alla casa di pietra e incontravano per via la signorina Lavendar. Non li aspettava in quel momento e diventò pallidissima. "Sicché, questo è il figlio di Steven", disse a voce bassa, prendendo la mano di Paul e guardandolo mentre era in piedi di fronte a lei con la sua aria di bel bambino. Con l'elegante cappotto e il berretto di pelliccia, assomiglia molto a suo padre. "Tutti dicono", osservò Paul del tutto a suo agio, "che sono un figlio degno del padre." Anna, che era rimasta a osservare la scenetta, tirò un sospiro di sollievo. Vide che la signorina Lavender e Paul si erano presi in simpatia e che non ci sarebbero state né soggezione né freddezza. La signorina Lavender era una persona molto sensata, nonostante i suoi sogni e il suo romantico passato, e dopo quel primo attimo di smarrimento mise da parte i suoi sentimenti e intrattenne Paul con brio e naturalezza, come se fosse stato il figlio di chiunque altro venuto a farle una visita. Passarono assieme un allegro pomeriggio e per cena fecero tali scorpacciate di cibi ben conditi che la vecchia signora Irving avrebbe di certo levato le mani al cielo per l'orrore, convinta che la digestione di Paul fosse rovinata per sempre. "Torna a trovarmi, bimbo mio", disse la signorina Lavendar, stringendogli la mano per congedarsi. "Può pure darmi un bacio se vuole", disse Paul. La signorina Lavendar si chinò e lo baciò. "Come hai fatto a sapere che lo desideravo?" sussurrò. "Perché mi ha guardato proprio come mi guardava mammina quando aveva voglia di baciarmi. Di norma non mi piace essere baciato, a nessun ragazzo piace, e anche lei lo sa bene, signorina Lewis. Ma mi va di essere baciato da lei, e naturalmente tornerò a trovarla. Mi piacerebbe se lei diventasse mia amica. Non ha nulla da obiettare, vero?" "No." Non ho nulla da obiettare, rispose la signorina Lavender. Poi si volse e rientrò in casa molto rapidamente, ma un attimo dopo, dalla finestra, faceva allegramente segno con la mano, salutandoli e sorridendo. Mi è simpatica, annunciò Paul mentre camminavano nelle faggete. Mi piace il modo in cui mi guarda. Mi piace la sua casa di pietra, mi piace Carlotta Quarta. Vorrei che nonna Irving avesse una ragazza come Carlotta Quarta invece di Mary Jo. Sono sicuro che Carlotta non penserebbe che sono un po' tocco se le raccontassi che cosa penso delle cose. Che splendido tè abbiamo avuto, signorina maestra? Nonna dice che un ragazzo non dovrebbe mai pensare a quanto gli danno da mangiare, ma qualche volta, quando si ha veramente fame, non se ne può fare a meno. Lei lo sa, signorina maestra. Non credo poi che la signorina Lavender costringerebbe un ragazzo a mangiare per colazione zuppa di cipolle, anche quando non gli piace. Gli preparerebbe qualcosa di delizioso. Ma naturalmente, e Paul era qui molto equanime nei suoi giudizi, forse la cosa non sarebbe un bene per lui. Comunque fa piacere cambiare ogni tanto, non è vero, signorina maestra?